tutto giorno di Simone Spezia. Il voto in Germania, Merkel perde consensi, cresce la destra di AfD, segnale negativo per l'Italia, sostiene Tajani. Concorsi truccati, arrestati 7 professori universitari, 59 indagati, tra loro l'ex ministro Augusto Fantozzi. Catalogna, non escluso l'arresto del presidente, tra le ipotesi ci sarebbe una dichiarazione di indipendenza. 5 Stelle, chiusa la kermesse, eletto il leader, restano le tensioni con l'ala dura di Fico. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Non siamo in diretta Facebook, oggi in diretta video, siamo in diretta dal Salone Nautico di Genova, quindi se ci volete vedere fisicamente dal vivo, ebbene, siete a Genova, potete venire a trovarci qua per un'edizione del Salone Nautico che ha segnato un grande incremento tanto di visitatori quanto di barche esposte, quindi un buon segnale per questo settore importante della nostra economia. Iniziamo però parlando di elezioni tedesche e ci colleghiamo con Berlino con la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno, e dove ti trovi? Ciao Simone, buongiorno. Io mi trovo in un quartiere particolare di Berlino, nel distretto di Marzahn-Hellersdorf, che è uno dei quartieri più difficili appunto della città, e bisogna allontanarsi da tutto per arrivare fin qui e fino all'origine del rancore. Bisogna andare anche oltre l'IKEA, le vecchie fabbriche e le distese di discount per arrivare appunto in questo quartiere dove di fatto esistono quasi solo gli opposti estremismi, dove la sinistra della Linke è il primo partito, come in buona parte dell'est della Germania, l'estrema destra dell'AfD, che entra per la prima volta al Bundestag con quasi 100 deputati, supera la CDU di Angela Merkel. Qui siamo circondati da altri casermoni grigi, bancarelle con le scarpe a 10 euro e pure le cassette con le sigarette di contrabbando. Le persone, gli abitanti con cui abbiamo parlato, soprattutto al mercato, come possiamo sentire anche in sottofondo dalla loro stessa voce, ci infilano una dietro l'altra le ragioni del loro voto: disoccupazione, insoddisfazione, criminalità. E se per molti il passato non è mai stato davvero accantonato, come ammette un anziano che ha sempre vissuto qui nell'ex DDA, per un suo coetaneo è invece anche il momento di ribellarsi. Troppi stranieri, si arrabbia, troppa ingiustizia, dice, nocciolando le cifre della sua pensione magra e quelle dell'assistenza invece ai migranti, perché questo è un po' il tema che ha portato la AfD non solo a sfondare grandemente nell'est del paese come in Sassonia, ma a fare breccia anche in alcune zone dell'est, dell'ovest appunto della Germania, in una forma di contestazione alla politica delle porte aperte di Angela Merkel. Sì, sì Raffaella, questo è il quadro da un quartiere che possiamo considerare un quartiere simbolo a questo punto. Invece a livello più generale, che cosa si profila per i prossimi giorni e che tipo di coalizione si profila? Si profila la coalizione chiamata Giamaica dai colori dei partiti, un'alleanza traballante su molti aspetti, dell'unione CDU-CSU con verdi e liberali, dopo la fine della grossa coalizione proclamata da subito dallo stesso leader dell'SPD, Martin Schulz, davanti alla peggior sconfitta di sempre del partito popolare più antico del paese. Simona. E grazie dunque a Raffaella Calandra per questo aggiornamento da Berlino, e veniamo alle reazioni italiane ed europee. Timore e preoccupazione, questo è il sentimento che sembra prevalere a Bruxelles per l'esito delle elezioni tedesche. Bisogna fornire risposte adeguate ai cittadini, evitare di dormire sugli allori nei confronti di chi vuole distruggere l'Unione Europea, commenta il presidente della Commissione Juncker in merito all'avanzata dell'estrema destra, mentre per il presidente dell'Europarlamento Tajani la Germania resta comunque impegnata per l'idea europea. Bisogna ora lavorare insieme per riformare l'Europa, ma il rafforzamento dell'estrema destra, dice ancora Tajani, è un forte segnale negativo soprattutto per l'Italia. Esultano invece i leader euroscettici come la francese Marine Le Pen, l'olandese Wilders, così come in Italia esultano Meloni e Salvini. Cresce la voglia di cambiamento, ora tocca a noi, dice il leader della Lega. Mentre per i parlamentari pentastellati è il segnale che qualcosa non va in Europa, siamo noi, scrivono in un comunicato, l'unico argine agli estremismi. Dal governo invece nessuno si sbilancia. A Palazzo Chigi, si sottolinea in un comunicato, si valutano i risultati elettorali e la conseguente frammentazione politica. politica. Ma l'Italia è più che mai pronta a collaborare con Germania e Francia per il progetto di rilancio dell'Unione Europea. Per il PD, però, il voto tedesco testimonia come l'estrema destra, per la sinistra, sia il vero avversario. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E anche per commentare questo voto tedesco, ma non solo per quello, abbiamo in studio con noi qua da Genova, dal Salone Nautico, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornato in quello che ormai è quasi un appuntamento tradizionale. Già l'anno scorso ci trovammo. È la nostra manifestazione più importante e quest'anno sta dando particolari soddisfazioni, non solamente per i visitatori, ma anche, diciamo, per il numero di barche, come ha già detto lei in apertura di questa trasmissione, e anche, credo, per volume di ordini. Insomma, la nautica un settore che è tornato a crescere per il secondo anno consecutivo, più 18% circa quest'anno di incremento di ricavi del comparto della nautica, che è un comparto di eccellenza per il design, per la tecnica, per tutto quello che investe nella nostra industria. Quindi direi che è una ventata di ottimismo essere qua oggi. Per quanto riguarda, questo è un bene positivo tanto per Genova quanto per la Liguria, quanto per il paese evidentemente. Per quanto riguarda le elezioni tedesche, che è l'argomento dal quale veniamo adesso, le vorrei chiedere due cose. Inizierei da questa, l'impatto sull'Italia, poi veniamo all'impatto, se ce n'è uno, sul centrodestra, però partirei dall'impatto sull'Italia. Ma guarda, tanto cominciamo col dire che non sono partite di calcio e che l'esultanza da una parte e dall'altra mi sembra inappropriata. Bisogna guardare con grande rispetto al voto di un paese amico come la Germania. Io credo che l'analisi sia molto semplice rapportata all'Italia. I partiti tradizionali in grande coalizione sono stati puniti dagli elettori, sono stati puniti perché è un'alleanza che non piace ai rispettivi elettori, sono stati puniti perché evidentemente sia il Partito Popolare che il Partito Socialista non hanno elaborato in questi anni ricette per un continente in cerca di identità tali da convincere gli elettori, e quindi pure un'economia che va come quella tedesca, pure partiti seri e radicati come quelli che erano al governo in Germania, non sono riusciti a dare delle risposte alle paure del nostro continente, al disagio e alle necessità degli elettori. Credo che i nostri partiti tradizionali, quelli che hanno vocazione di governo a destra o a sinistra, se ne debbano fare, come dire, una lezione di tutto questo e cominciare a elaborare qualche programma un pochino più adeguato ai tempi rispetto a quello che ho sentito finora. Ogni paese ha la sua storia, evidentemente. Io rilevo che se i popolari e la destra in Germania stessero insieme sarebbero di gran lunga la prima coalizione del paese e il governo più stabile possibile per quella realtà. La storia lì non lo consente. In Italia evidentemente sì, da 22 anni, tant'è vero che ora, appena la lascerò, andrò a pranzo con Matteo Salvini, che è qui ospite del Salone insieme a me. Abbiamo fatto un giro prima e ci aspettano a colazione i vertici di Confindustria Nautica. In qualche modo mi ha già dato una risposta alla seconda domanda, che era esattamente quella sui rapporti nel centrodestra. Cioè, c'è chi dice Silvio Berlusconi, storicamente vicino al Partito Popolare e che si è riavvicinato fortemente nell'ultimo periodo al Partito Popolare Europeo, faticherà a giustificare di fronte al Partito Popolare Europeo un'alleanza con un partito come la Lega, che invece è vicino ad Alternative for Deutschland. Il Partito Popolare Europeo, francamente, oggi non credo sia nelle condizioni, anche dopo la sconfitta tedesca, di dettare le condizioni agli altri partiti popolari dei paesi come l'Italia. Per prima cosa. Per seconda cosa, ho sentito poco fa dire a Salvini in una conferenza stampa congiunta che abbiamo fatto che Alternative for Deutschland è un partito, la Lega è un altro partito, storie diverse, paesi diversi, tradizioni diverse, sensibilità diverse. Certo, uno scetticismo di base sull'Unione Europea che li unisce, ma non hanno certamente la loro storia. Insomma, la Lega ha un'altra storia. Da questo punto di vista io vorrei dire a tutti quanti, da Salvini al mio presidente Berlusconi, che la lezione tedesca è quella che dialogare è complicato, ma è l'unica strada per vincere. Alternative for Deutschland festeggia oggi un lusinghiero risultato, ma resta un partito marginale negli equilibri politici della Germania. Il Partito Popolare si è preso una solenne scoppola proprio perché in questo suo abbraccio col Partito Socialista, che è lo stesso che governa poi con noi l'Europa, non ha saputo dare risposte agli elettori. In Italia ci sono tutte le condizioni per una strada e un futuro diverso, perché il nostro passato è diverso. L'alleanza Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia è nel nostro DNA, i rapporti tra i leader, tra i governatori, tra i amministrazioni sono ottimi rapporti, il nostro programma di governo è un programma che si sta avvicinando sempre più. No, non credo sia sfuggito agli attenti ascoltatori di Radio 24 i distinguo sull'Europa di Salvini, rinegoziamo i trattati, l'uscita dall'euro, diciamo che è diventata un'opzione residuale delle politiche anche della parte più estrema del centrodestra italiano. il paese ha bisogno di una ventata d'aria nuova, i grillini non lo possono essere, lo stanno dimostrando, Renzi ha fallito nel suo compito. Abbiamo una responsabilità gigantesca e le elezioni tedesche ci spingono esattamente dove i nostri elettori vogliono che si vada. Grazie Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, per essere stato con noi. Grazie della consueta ospitalità e anche di essere qua a Genova in questo splendido salone come ogni anno. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Noi cambiamo argomento e veniamo all'inchiesta di questa mattina che ha coinvolto più di 50 professori universitari. 7 docenti universitari di diritto tributario, gli arresti domiciliari e altri 22 interdetti dall'attività accademica per 12 mesi, tra loro anche componenti delle commissioni ministeriali nominate dal MIUR. Per altri 7 docenti il GIP valuta nuove misure cautelari. Eseguite inoltre 150 perquisizioni domiciliari da parte di 500 finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze. Tra gli indagati, 59 sull'intero territorio nazionale con l'accusa di corruzione, anche l'ex ministro Augusto Fantozzi, per il quale va decisa l'interdizione, e Roberto Cordeiro Guerra, ordinario di diritto tributario a Firenze, che è stato già interdetto. Le indagini hanno consentito di accertare sistematici accordi corruttivi tra numerosi professori di diritto tributario. Tali accordi erano finalizzati a rilasciare abilitazioni non per merito, ma secondo logiche di spartizione territoriale e di reciproci scambi di favori per soddisfare interessi personali, professionali o associativi. L'inchiesta è partita dalla denuncia di un ricercatore fiorentino al quale sarebbe stato proposto di ritirare la propria domanda al concorso per fare posto ad un altro candidato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Catalogna. No está encima de la mesa del gobierno catalán ahora hacer una declaración unilateral de independencia. Seguramente alguien la va a proponer y vamos a debatir. Al momento la questione non è sul tavolo del governo catalano, ma in un'intervista televisiva il presidente Puigdemont non ha escluso del tutto la possibilità di una dichiarazione unilaterale di indipendenza da presentare al Parlamento dopo il 1 ottobre. Puigdemont ha definito l'offensiva giudiziaria contro la Catalogna un fatto vergognoso, indegno, ha detto, di uno Stato democratico. Intanto il procuratore capo dello Stato spagnolo, Maza, non ha escluso un possibile arresto del presidente. È un'ipotesi aperta, ha spiegato, dato che è accusato, tra l'altro, di presunta malversazione per la convocazione del referendum del 1 ottobre. Da Roma, dove è ospite di un forum organizzato dall'ANSA, il delegato Luca Bellizzi ha intanto assicurato: è nostra volontà celebrare il referendum, è il mandato ricevuto dalle urne del 2015. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si apre il G7 a Torino, siamo in linea con la nostra inviata Anna Marino. Anna, buongiorno, quali sono le novità? Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. In questa settimana del G7 chiamata Italian Innovation Week, dopo le polemiche dei giorni scorsi in una reggia di venaria blindata, circondata da 3.000 telecamere, si inizia finalmente a pensare ai contenuti. Al G7 Industria e Tecnologie il focus è sull'intelligenza artificiale, la cyber security, big data, il lavoro nell'era digitale, ma il vero nodo è che cosa ci si può attendere dal G7. La risposta arriva dal sottosegretario all'industria Antonello Giacomelli, che annuncia anche un potenziamento dei fondi per Industria 4.0. Sentiamo. L'azione del governo prosegue con molta determinazione e i risultati si vedono. Il vero tema è trovare politiche e approcci comuni a livello internazionale. Abbiamo sfiorato una difficoltà importante tra Europa e Stati Uniti sul tema del trattamento dei dati. C'è un problema che riguarda la relazione tra i nuovi giganti della rete e le economie, lo dico in modo improprio, più tradizionali. Metteremo ulteriori risorse per potenziare l'impatto che ha avuto Industria 4.0, che in un sistema di piccola impresa come l'Italia è stato uno strumento importante. La notizia poi sul fronte degli eventi collaterali: una delegazione del G7 visiterà venerdì i laboratori del Politecnico di Torino, l'incubatore delle start-up. Oggi attesi il ministro per lo sviluppo Calenda e i colleghi dei 7 paesi coinvolti, accolti dalla sindaca di Torino Appendino, che al di là delle polemiche sulla sua visita di stamattina a Madrid ha riconfermato la sua presenza. E per ora è tutto. E grazie dunque ad Anna Marino per questo aggiornamento. Oggi siamo qua in diretta dal Salone Nautico, come vi abbiamo detto. Mercoledì Effetto Giorno sarà invece in diretta dal Cersaie di Bologna, che inaugura oggi. Sentiamo il servizio. Un settore in crescita, tornato quasi ai livelli pre-crisi in termini di fatturato. Un settore capace di investire in efficienza produttiva e quindi ecosostenibilità. questa la fotografia del comparto che hanno dato il presidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borelli, e il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, durante il taglio del nastro inaugurale del Cersaie. E il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha indicato la manifattura della ceramica come esempio di un dinamismo più generale della nostra economia produttiva. Sentiamo. È un esempio di come, diciamo, il sistema industriale italiano investito in tecnologia sta reagendo. Ha saputo riposizionarsi con un livello di qualità elevato, entrando in dimensioni di alto valore aggiunto, coniugando design, bellezza ed equilibrio, che è un po' quello che è l'Italia, tecnologia e bellezza. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna. E prima di chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo a parlare di sport con il nostro Carlo Gente. Un fine settimana ricco per, tanto per le due ruote quanto ovviamente per il calcio. Carlo, ciao. Ciao Simone, sì, hai detto bene, le due ruote, sia quelle con i motori che quelle senza, perché ieri abbiamo visto il riferimento era esattamente a quello. No, ieri abbiamo visto due fenomeni, dai. Valentino Rossi, che con una gamba rotta è arrivato quinto, un altro fenomeno, Marquez, che ha allungato le mani sul titolo, un po' meno fenomeno Dovizioso, che era deluso ed è a meno 16 ora dallo spagnolo. E poi, per quanto riguarda le altre due ruote, Peter Sagan, che ha compiuto un'impresa in Norvegia che non è mai riuscita a nessuno, Merckx, Coppi, mettete chi volete, nella storia del ciclismo, terzo mondiale consecutivo per questa rockstar delle due ruote. È arrivato lì senza nemmeno conoscere il circuito, ha detto ma sì, ma tanto devo farlo 10-11 volte, quindi avrò tempo per impararlo, e alla fine ha vinto ancora. Il più forte del mondo nelle corse in linea, senza discussione. Quanto al calcio, Milano discussa, soprattutto il Milan che ha preso due sberle dalla Sampdoria, e c'è scetticismo nei confronti di Montella, ci sono parole dure da parte di Fassone, massimo dirigente italiano dei rossoneri. L'Inter criticata perché non è bella, perché batte il Genoa solo nel finale con un gol di D'Ambrosio, però basta leggere la classifica che vede Juventus e Napoli appaiate in testa e segue proprio l'Inter, quindi critiche che ci stanno, ma solo fino a un certo punto. Notiziaccia del weekend, poveretto lui, Milik, attaccante polacco del Napoli, si è di nuovo rotto dopo essere stato fuori per molti mesi per un infortunio al ginocchio. Ora si è spagato il crociato dell'altro ginocchio e starà fuori ancora almeno 4 mesi. Dunque, pessima notizia per il ragazzo e per Sarri, che dovrà inventarsi qualcosa di nuovo. Simone. Allora, grazie Carlo, ti ritroviamo come sempre alle 14 con tutti i convocati. Prima di chiudere questa prima parte della trasmissione, una notizia che arriva dal mondo della televisione, notizia che vi diamo perché tante polemiche ha suscitato quest'estate la vicenda dell'ingaggio di Fabio Fazio. Ebbene, sono arrivati i dati Auditel sulla giornata di ieri. Il debutto di Che Tempo Che Fa ha ottenuto 5.128.000 telespettatori, il 20,8% con 5.128.000 telespettatori. Esordio positivo anche dall'altra parte per Morandi su Canale 5, che ha raccolto 4.654.000 spettatori. Adesso ci fermiamo, c'è come di consueto la pausa per sentire cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo, andremo a sentire le vicende del Movimento 5 Stelle, quelle che riguardano la manovra, e poi il nostro giro per l'Italia ci porterà a parlare di questa inchiesta della Guardia di Finanza. Qualcuno ha già detto che i finanzieri hanno scoperto l'acqua calda, ossia concorsi truccati, 59 professori universitari indagati, 7 arrestati. A tra un attimo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta dal Salone Nautico di Genova. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del voto in Germania, di concorsi truccati, e ci torneremo tra un attimo, di Catalogna, ci siamo occupati anche di calcio, ciclismo e motociclismo, come avete sentito. Adesso, prima di iniziare il nostro giro per l'Italia e parlare di questa inchiesta della Guardia di Finanza, andiamo a chiudere il nostro riassunto delle notizie principali, iniziando dal Movimento 5 Stelle e poi andando alla manovra. Andiamo al Movimento 5 Stelle all'indomani della kermesse di Rimini. Sarà come dice Beppe Grillo che Roberto Fico è romantico e Luigi Di Maio è di carriera, ma intanto finisce con l'affondo del presidente della commissione vigilanza Rai, la kermesse di Rimini, quella che incorona il vicepresidente della Camera ma che non spegne i malumori degli ortodossi. Così, dopo essere stato zitto per 3 giorni, alla fine Fico esce allo scoperto: il candidato premier non è il capo del movimento. Un colpo a Di Maio già affiaccato dalla scarsa partecipazione al voto, appena 37.000 votanti, 31.000 a suo favore. Di Maio pensa invece al prossimo programma di governo, sanità, migranti, vincolo europeo del 3%, che non è un dogma e si vedrà oggi con Davide Casaleggio a Milano, ma anche burocrazia, che dice è un ostacolo per start-up e talenti di oggi. C'è poi la questione della legge elettorale, i 5 Stelle hanno già detto di no, ma si profila l'accordo sul Rosatellum tra Forza Italia, Lega, AP e PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora le cronache dalla manovra. La prossima legge di bilancio non sarà una manovra elettorale, ma selettiva. A ribadire la linea del governo è il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda. La determinazione del governo è ferma, dice Calenda, si affronteranno gli snodi fondamentali, in particolare giovani, lavoro e investimenti, soprattutto gli investimenti privati, sottolinea Calenda, che vogliono anche dire investimenti in formazione con il secondo capitolo di Industria 4.0. Sale intanto a 1 miliardo e 650 milioni il fondo per il rinnovo del contratto degli statali. Con la legge di bilancio il governo intende infatti stanziare 0,5 miliardo in più per il rinnovo contrattuale dei dipendenti dei ministeri e delle scuole. Altre risorse ad hoc andranno invece alle forze dell'ordine. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso andiamo a parlare di questa inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato ad indagare 59 professori universitari. L'ipotesi di reato sostanzialmente è quella di aver truccato i concorsi, ci sono stati anche 7 arresti, tra gli indagati c'è l'ex ministro delle Finanze, Augusto Fantozzi, e per parlare di questo siamo in linea con Matteo Fini, che è stato un ricercatore fino a qualche anno fa, adesso fa un altro lavoro, lavora a livello aziendale. Matteo Fini, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. L'abbiamo chiamata perché si è occupato di questo, ha scritto, se non ricordiamo male, una lunga lettera all'Espresso e poi c'è un libro che mi si scuserà se siamo in fascia protetta, che non è mai uscito perché ha ricevuto una serie di diffide e quindi non è riuscito a pubblicarlo, che si intitolava Università e puttane, e l'argomento era esattamente questo, cioè come funzionano i concorsi alle università. Ci può raccontare brevemente la sua esperienza personale? Allora, innanzitutto chiedo scusa anch'io per il titolo, magari un po' forte, però vedo che è arrivato. Ma niente, la mia esperienza personale non è niente di che. Io ho fatto un po' di carriera universitaria qualche anno fa, ho finito nel 2009-2010, quando ho capito che insomma andare avanti era impossibile, al di là dei meriti o dei demeriti, non è questo il punto, ma che il sistema fosse un po', diciamo, tutto controllato, era sotto gli occhi di tutti. Adesso voi mi chiamate per un parere, stamattina molti amici mi hanno condiviso il link in privato in bacheca, ma in realtà io la notizia non ce la vedo, insomma, chi ha lavorato nell'ambito sa che così è e così sarà. E come funziona il meccanismo in sostanza? Che i vincitori dei concorsi di ricerca si sanno in anticipo sostanzialmente, allora, no? Innanzitutto lo schema è esattamente l'inverso, non è che c'è un concorso, la gente partecipa e uno vince, bravo o meno bravo che sia, ma c'è un vincitore e allora si fa un concorso su misura per lui per occupare quel posto. Per cui in realtà adesso io non voglio, ho già beccato tonnellate di denunce, per cui non vorrei esagerare, però insomma diciamo che i concorsi siano tutti o più o meno tutti pilotati, si sa, non è una cosa che invento io e si scopre oggi, è una cosa che si sa. Tra l'altro leggevo poi, ho letto gli articoli stamattina, insomma, nonostante io sia abbastanza nauseato, si parla anche delle minacce a chi non deve iscriversi ai vari concorsi. Anche questa è una non notizia, nel senso una cosa che si sa da sempre, chi non deve vincere, se è bravo, viene invitato a non iscriversi in un modo o nell'altro, con promesse e o minacce, insomma. E questo lei l'ha vissuto sulla sua pelle. Promesse o minacce vuol dire non partecipare a questo concorso perché deve vincere quella tal persona, partecipa al prossimo, che non ti preoccupare che ti riserviamo un posto, più o meno così, no? La promessa è questa. Esattamente, più o meno così. Se proprio vuoi sapere della mia storia personale, io non ero assolutamente un fenomeno della ricerca, ma indipendentemente da quello ho visto, alcune volte mi è stato chiesto di non iscrivermi, ho visto vincere concorsi, visto pilotare concorsi a tutti i livelli, dalla borsa di dottorato al concorso da professore ordinario, assolutamente standard, non strano. Ti posso dire anche tranquillamente che gli stessi concorsi che magari ho vinto io, nonostante la mia carriera si sia fermata abbastanza presto, anche quei concorsi lì erano già decisi. Cioè io non è che sapevo che avrei vinto perché ero ancora molto giovane e ingenuo, però a posteriori, rileggendo la storia, mi sono reso conto che anch'io, nel caso in cui ho vinto la mia borsa, ero sicuramente avvantaggiato su altri. Poi ovviamente mi sono impegnato, ma questo è un altro discorso. Allora, grazie per la testimonianza a Matteo Fini, che è un ex ricercatore universitario che molto si è occupato dell'argomento. Va detto chiaramente, e lo precisiamo prima di andare in pausa, andare a sentire cosa succede sui mercati e poi salutarci, perché come sapete la puntata del lunedì di Effetto Giorno è un po' più breve, va detto chiaramente che questo è solo l'avvio di un'indagine. Noi applichiamo sempre il massimo garantismo possibile sia ai professori arrestati che gli indagati, può darsi che ne escano completamente puliti. Fatto sta che qua c'è un sistema del quale spesso abbiamo raccontato che per certi versi non funziona. Può darsi che non sia diffuso come dice Matteo Fini, può darsi che sia meno diffuso. Questo non lo sappiamo ed evidentemente andrà indagato ulteriormente. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come si diceva, ci ritroviamo poi per i saluti. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il voto in Germania, Merkel perde consensi, cresce la destra di Alternative für Deutschland, segnale negativo per l'Italia, dice Tajani. Concorsi truccati, sono stati arrestati 7 professori universitari, 59 indagati, tra loro l'ex ministro Augusto Fantozzi. Catalogna, non escluso l'arresto del presidente, tra le ipotesi che spuntano ci sarebbe quella di una dichiarazione di indipendenza. 5 Stelle, si chiude la kermesse, eletto il leader, restano le tensioni con l'ala dura di Fico. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Poco tempo, come sapete la puntata del lunedì è un po' così. La linea va a Mario Platero, America 24. Ci risentiamo tra un attimo per i saluti.